confuso, straniato, rapito. Mi muovo tra morbide luci, ma cascio stremato e impaurito. Attendo che l'anima bruci. Odio, orgoglio e violenza, di mille bambini hai sorriso. Mi basti capirne l'essenza, per l'immagine del mio sorriso. Aiutami a volare, non voglio cadere più. Aiutami a soffrire come non sai fare tu. Spegni le mie candele con un anelito. Spegni il mio pianto con le tue labbra. Allontano col fare distrutto, il buio mi avvolge le membra, ormai conscio d'aver perso tutto. Aiutami a volare, non voglio cadere più. Aiutami a soffrire come non sai fare tu. Spegni le mie candele con un anelito. Spegni il mio pianto con le tue. Morbide luci, da casci stremata e paurita, attendi che l'anima bruci. Odio, orgoglio e violenza, di mille bambini ho sul viso. Ti basti capirne l'essenza, per l'immagine del tuo sorriso.